Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oggi, per lo scompartimento del mio treno, c'è una strana forma di euforia, di allegria, quasi perché forse si sente già la primavera, anche se poi siamo tutt'altro che in periodo primaverile. Ma forse c'è il sole, forse la gente è allegra. Mi sembra di sentire musica per tutti i vagoni, musica di tipo diverso. E infatti, davanti a me, vedo la ragazza con la chitarra. La ragazza con la chitarra da qualche tempo ha posto in secondo piano il suo strumento musicale e ostenta libri, come se per lei ci fosse la necessità di ostentare un percorso professionale che sia diverso da quello della sciantosa, della musicista, dell'artista. Forse vuole dimostrare a qualcuno che ella ha cervello, come se non fosse paragonabile una donna che ha fantasia, una donna che ha l'intelletto dell'uscita dal mondo, a una donna che ha cervello, che ha studiato, che è intelligente, comunque legge e comunque muore dalla voglia di farmi vedere il libro che sta leggendo. Questa volta per darti un contegno, che libro hai? Stavolta, guarda, quell'altro veramente l'ho lasciato sul treno, non l'ho più portato con me. Book shifting, bello. Mi sa che l'hai preso te forse, perché mi sono girata, book crossing, non c'era più. Il book crossing è lasciare da qualche parte i libri, una cosa molto molto così, compagnia, lasciamo i libri in giro, la cultura, la gente lascia lì, la gente li prende, se li vende vende alla bancarella, cioè, che stanno pensando a 2 euro. Book shifting è molto divertente, lo facevo io. E andavi in librerie, togli i libri bestseller sempre in prima fila, li nascondi, sopra ci metti i libracci del cavolo. Li scambi, è bellissimo. Ah, bello. Però prendi un che libro, non si fa che più. Ne prendi, che ne so, Leopardi, lo metti sopra Bruno Vespa. Fantastico. Così lo facevamo, abbiamo fatto per tanto tempo. No, è bene. Che leggi? Di la verità, ti sei andato a leggere qualcosa l'altra volta? Ma figlia mia, ci ho tempo di leggere. Che stai leggendo? Santa pace, sto leggendo una cosa che è più romantica questa volta. Meno perché la di prima non c'era abbastanza romanticismo. Dimmi. Sono arrivata a un capitolo che si chiama Lei e i baci rubati. Ti leggo un autore? Pezzettino, se vuoi. Sorpresa. Allora, non me lo dire. Leggi il pezzo, voglio capire cos'è. Vediamo. Va bene, dai. Una sera eravamo in macchina e stavamo andando a una cena. Era primavera. Ci siamo fermati a un bancomat e lei è scesa ed è andata allo sportello automatico. Aveva un vestito blu che le segnava bene le forme, le lasciava una parte di schiena nuda, le scarpe con il tacco alto e la suola rossa. Io la guardavo dalla macchina e non ho resistito. Sono sceso e mi sono avvicinato. Lei se ne è accorta e si è girata. «Cosa fai? Li prendo io i soldi?» L'ho guardata e senza dire niente le ho dato un bacio sulla bocca, poi uno sul collo. Sono tornato in macchina e ho continuato a guardarla attraverso il finestrino. Si è girata un paio di volte verso di me mentre aspettavo che finisse. Sorrideva, era felice. Beh, che 50 sfumature di grigio pallido. Che è una cosa terribile. Lo sai il punto? Punto idiota. Che ti ha colpito? Le scarpe con la sola rossa, che hanno tutte le scarpe con il tacco alto, la sola rossa. Sì, tutte le strappaculo, si compare le scarpe con la sola rossa. Beh, sì, in effetti non è che sia. Vabbè, ma non è quello il punto non è neanche il bancomat, il punto è che tipo tu ti fermi, la tua donna scende, va a prendere i soldi, tu al posto di guardare il telefono, guardare siamo arrivati in ritardo un'altra volta, guardi lei, scendi e vai là e le fai un gesto. Ma non puoi baciare quando entra in macchina? Vabbè, se stai pigro, sì, che c'entra? Baciarla quando è in macchina lo puoi fare anche prima. No, per scipparla intanto le soldi che ha appena ricevuto dal banco. Ma... non lo sapevo che dici. Cioè, questa cosa ti affascia. Allora, questa è una cosa romantica, secondo te? Beh, questa, scusa, allora, adesso... la stiamo ridicolizzando. Quella c'ha le scarpe tanto da 1500 euro minimo, quindi... o forse da 2 euro, dipende. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Comunque il punto è che magari il tuo uomo in quel momento sta guardando te, non guarda il finestrino della macchina che si è spaccato o la radio che non va. Cioè, voi donne vi sciogliete con una cazzata del genere? Uno ma che... sì, perché tu stai lì, non te lo aspetti, perché è un momento di praticità della vita. Sai, prende i soldi a bancomat, vedi il tuo uomo che arriva da dietro e ti abbraccia, ti bacia. Scusa, non è carino, non è neanche tanto sdolcinato, è un gesto, poi rientra in macchina. No. Ma tu che avresti fatto? Ma non lo so, che so, uno prende il banco, datti una mossa, forza, svelto, dai. Di solito, lo vedi, lo solito, vedi. Ma preferisco prendermeli io i soldi, perché tanto se una donna esce con me pago io, quindi è inutile che prenda i soldi al banco. Ma ho questa... vabbè, ma magari sono una coppia da... lui talmente spiantato... da tre anni. Sì, è talmente spiantato che la porta magari fuori, lei con forse... le scarpe. No, guarda, dietro c'è una chiave terribile. Lei si è vestita tutta figa per andare a cena con lui e va a prendere i soldi al banco, quindi sa già che lui non le offrirà nemmeno la cena. Quindi sto morto di fame. Ma magari sono insieme da anni, no? E beh, che io insieme da anni, quindi non vale la stessa cosa. No, che c'entra? Magari hanno il conto in comune, ma scusa, Ma poi, lei non dovrebbe manco cacciare i soldi di mano, è brutto il gesto. Anche se i soldi sono comuni, è brutto il gesto. Scusa, ma poi dice, io l'ho guardata senza dire niente, le ho dato un bacio sulla bocca. Lei sorrideva, era felice. Ma come fai a sorridere quando c'è una bocca appiccicata con la lingua dentro? Come fai a sorridere? Aveva sentito quanto mi piaceva, quanto fosse pazzo di lei. Gliel'aveva appoggiato che sarà un po'... Gianluca, queste cose piacciono alle donne. Non puoi sempre dire che queste cose... ci sono uomini che le sanno fare, le fanno e le donne lo sentono e sono felici. Basta. Piacciono le donne stupide. Cioè un cretino che ma ti fa pagare che... la cena e poi ti dà il bacio sulla bocca mentre prendi i soldi. Dire, brava che cara che prendi i soldi che, così senti paghi. Che ha detto... cosa fai? Li prendo io i soldi. Magari lui gli ha dato la sua tessera e lei è andata a prendere. Sì, anche la passo, anche il PIN, bravo, furbo, che se sai. Per poi le donne durano in eterno, durano, capito? Durano in eterno come le scarpe con la suola rossa. Comunque, poi lei è tornata in macchina, si è girata e mi ha dato un bacio. Ma gli ha già dato lui in piedi fuori? Sì, poi però lei per far vedere quanto era felice è tornata in macchina e gli ha dato un bacio. Ma sempre baci, poi alla fine... poi alla fine che allora che facciamo? Niente, allora vanno al ristorante. Allora sbrigate che siamo in ritardo, siamo in ritardo di un'ora perché ti sei messa le scarpe con la suola rossa. I tuoi fidanzati diranno così. No, però c'è una via di mezzo. A me già no? La scarpa con la suola rossa sarebbe un elemento di abbandono di chiunque in prima macchina. Come calzini. Ma mica fa il grande fratello la scarpa con la suola rossa. Cioè mica una donna a semaforo, ma che mi importa. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Vabbè, senti, fatto sta di chi è sto libraccio allora? No, non te lo dico. No, dimmelo. No, non te lo voglio dire. Non me lo dire. Allora. Dai, va avanti nel racconto, vediamo, diciamo alla fine. Che vuoi che vada? Questo era un capitolo, era. No, mi fa pensare veramente. Questo probabilmente sarà un libro di successo, perché il fatto che abbia fatto così presa su te. No! Illusa presa. E disabituata a i meandri della vita, fanciulla con la chitarra, allora, che soltanto per un cretino che ti dice va a prendere soldi al banco, ma ti dà un bacio perché tu lo mantenga per tutta magari la serata. Magari si voleva far perdonare, ma se la vedi così, cioè proprio ciao, nel senso. Ma lui era un poveretto. Ma no, non è un poveretto. Una principessa no. È un povero. No, beh, pure se fosse. Scusa, non è un modo per ringraziarla. Beh, una che ti porta a cena fuori, ti paga la cena e si mette le scarpe con la suola rossa, vuol qualcosa di più di un bacetto in piedi. E magari sì, magari no. Comunque sono dell'idea che stai sempre a contestare il romanticismo quando invece. Ma non è romanticismo. Non è un romanticismo, infatti, è una scena carina, è un'immagine. Romanticismo. Cioè, è un'immagine. Che cos'è? Dimmi come sarebbe andata secondo te. Una cosa romantica. Una scena, sì, una cosa romantica. Cosa romantica che è un amore nel tutto contrastato e impossibile. Non così. Tipo una scena allora. È un amore. Sono due in macchina, una scena di romanticismo. Una scena di romanticismo. Nella praticità, cioè. Ma la macchina... Devono prendere i soldi. La macchina non ha niente di romantico. E i soldi in sé sono l'antitesi. Di notte viaggiando è romantico. Viaggiando è romantico. Devo prendere i soldi. Improvvisamente lui dice: mi è scaduta la testa del bancomat. Passa un signore ricco e ben vestito con una donna ingioiellata al braccio. Lui scende, lo rapina, scippa, strappa le catene, le collane di diamanti alla donna, li lascia sanguinanti a terra e va dalla sua donna e dice: guarda, l'ho fatto per te. E la riempie di gioielli rubati e di diamanti, e con i soldi del signore va e ferma tutto un locale su musica soltanto per noi, la fa ballare, la fa, e poi vengono i carabinieri, lo prendono e lo fucilano, ma lui è felice perché ha fatto un bel gioco. Questo è romantico. Cioè non dai modo di ripetere questa scena. Lui è tragica. Cioè il romanticismo è tragico, certo, alla fine. Adesso un gesto epico, lui immolato sul gesto d'amore, lui non potendo permettersi di farla felice da principessa una sera, mette a repentaglio la sua libertà, tutto, la sua vita, tutto. Rapina, fa un gesto scellerato, ma l'amore è fatto solo di gesti scellerati. L'amore di cose carine non è amore, l'amore conosce solo gesti scellerati. L'amore non conosce pietà, non conosce regole, non conosce etica. L'amore è distruttivo, l'amore è una guerra, uno vince e uno muore, così deve essere, solo che amore è. Bene, se lo metti così. Dai, vai con sta cazzata di libro. No, basta, non leggo. Ah, Fabio Volo, l'ho visto. No. È il libro di Fabio Volo. Pensa, lo sospetto. Quale libro è di Fabio Volo? Lo sai come si chiama? No, dimmi. Il tempo che vorrei. Il tempo che va in contrasto con la tua tesi, perché nel romanticismo non c'è tempo, perché stai di corsa, perché il romanticismo è contro il tempo, allora. No, è un tempo. Non hai tanto tempo. È un tempo eterno, è uno stillicidio continuo, è una consumazione, tu vorresti che finisse, ma non finisce. Allora come lo chiameresti? Come lo chiameresti? Ma che ne so, ma non lo chiamo il manco. Tempo... Ma non lo chiamerei niente, lo chiamerei tempo che libro fa. Per ragazzini idioti che amano e pensano e sognano. Beh, la prossima volta ti stupirò. Sì, stupiscimi, fammi una sonatina di chitarra, mi è venuto il mal di testa, giuro. Ah, preferisci allora? Lo vedi, stai apprezzando la mia chitarra? Sì, la chitarra. La chitarra, la tua chitarra l'apprezzo molto. Ah, va bene. Anche il mandolino. Sì, diciamo, ci ha voluto Fabio Volo per farti apprezzare la mia chitarra? Tu saresti pronta a dare fondo ai tuoi risparmiucci di ragazzina per un cretino che ti dà il bacino in piedi. Dice: andiamo a mangiare la pizza. Dice: ma sì, ho soltanto 15 euro nel mio conto del banco. Guarda, ma io non sarei mai potuta scendere ad andare a prendere i soldi, perché probabilmente avevo perduto la carta prima, non sapevo dov'era, stavo zitta fino all'ultimo ed ero in difficoltà. Vabbè, questo fa parte del gioco. Ciao ragazza con la chitarra, ciao. Cercherò per quanto possibile di descrivere la persona che sto vedendo, anzi la scena che sto vedendo. Ero andato a prendermi un caffè al bar dello scompartimento, che di solito è sempre pieno di gente che sta lì per prendersi il panino incellofanato, la fetta di torta, il succo di frutta, o sennò le solite noccioline o patatine dentro il cilindro di alluminio. Lui è seduto a uno di quei tavolini monoposto con il palo che non c'hanno sedie intorno, e devi sederti arroccandoti su una specie di spigolo di suppellettile da vagone. Ma sembra bello comodo, è tutto vestito di nero, sembra quasi un personaggio ottocentesco, ha dei grossi baffoni da soldato austriaco dei tempi di Francesco Giuseppe, grossi e color stoppa, e ha in testa un cappello nero. È un personaggio singolare, cravatta nera, camicia nera, gilet nero, pantaloni neri, stivaletti neri, redingot nera. Sembra quasi, non so, uno di quei gli impresari o di quei valletti di pompe funebri, oppure un personaggio strano di un libro di avventure, di viaggi. Potrebbe essere il pilota di un pallone, di una mongolfiera, di una persona che vola, che fa avventura. Me lo immagino con degli occhialoni inerpicati su quel cappello. Accanto a sé una fisarmonica che ogni tanto suona, strimpella, non è molto gradito perché la gente è in treno, annoiata, infastidita, e lo scambia subito magari per una sorta di girovago, ma lui questo non è, e comincia a raccontarmi la sua storia. Ma guarda, questo è strano, non ho mai visto un viaggiatore passare il tempo del viaggio al bar. Sempre al bar. Ma è scomodissimo, sono dei sedili. Ma io non riesco a dormire in treno. Ma non ti piace stare vicino alle persone? No, sai cos'è? Che tu provi a dormire in treno, allora ti svegli di punto in bianco, ti svegli di colpo e hai uno che ti sta fissando davanti e tu magari avevi il labbro penzolo. Beh, tu con quei baffi lì è chiaro che un pochino attiri lo sguardo. Eh certo, ma pensa a svegliarti di colpo. Vabbè, vestito di nero, col cilindro nero, con i baffoni ottocenteschi, un pochino dai nell'occhio. Beh, non mi nascondo di essere un esibizionista, però mentre dormo, diciamo così come quando vado in bagno, preferisco essere da solo, preferisco non farmi vedere, ecco. Viaggi molto? Molto, col treno molto, ho tanti punti. Per fare spettacoli? Per fare spettacoli, perché abito lontano da casa, quindi... Quando è che hai preso una fisarmonica in mano la prima volta? Da grande, nel 2006. E che repertorio fai però? Come canzoni? Sì. Io soprattutto canzoni di varietà e avanspettacolo spettacolo dei primi del Novecento italiano. Beh, sei ricco di famiglia allora. Eh? Sei ricco di famiglia. Penso che ci sia molta gente più ricca, cioè, tutti sono più ricchi di me, ma diciamo è la ricchezza è quella di avere il tempo e di poterselo dedicare. E questa è la cosa importante. Poi lavoro molto, perché io suono molto, faccio molti spettacoli. Vabbè, però è un lavoro faticoso, ma in fondo gratificante. È estremamente gratificante. Infatti io, in una canzone che ho scritto in treno, dico proprio: voglio ridare al mondo ciò che ho rubato quando ho deciso di vivere di velleità. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Io mi sento di aver rubato qualcosa, perché tutti stanno peggio di me. Io faccio una vita fantastica e voglio restituire al mondo. Vabbè, rubato, era lì, nessuno reclamava, se no non te lo prendevi, certo. Sì, ma un buon senso di colpa quando si vive una buona vita nei confronti del mondo non è una cosa cattiva. Ma io penso, però, uno il senso di colpa di averla quando la propria vita è a scapito dell'infelicità di un altro. No, infatti, per carità. Cioè, ma rubi soldi a uno, gli rubi la moglie, gli rubi i figli, allora sì. Per me è un motore questo. Tu che hai rubato? Niente. E allora perché ne sei sensi di colpa? Beh, sai, l'artista in qualche modo, almeno io, sento di condurre una vita materialmente inutile. Considera che quello che io produco non è materializzato né in scarpe, né in strade, né in cibo. Beh, però è felicità, sì. Sì, è pane per lo spirito, è pane spirituale. Cioè, che cosa facciamo? Niente, sono come i preti, cioè... regalo un conforto. Beh, però aspetta, i preti danno un conforto illudendoti nel futuro dopo la morte, tu almeno lo dai finché siamo vivi, è un po' meglio. Sì, non voglio dare meriti, non voglio creare non è che dai conforto, fai star bene, fai sorridere mentre siamo morti. Ma io infatti sono molto contento, questo è quello che voglio fare. Questa fisarmonica è una fisarmonica Pigini, è una fisarmonica artigianale di Castelfidardo, è uno strumento italiano la fisarmonica. È stata inventata questa fisarmonica di questo modello qua, è stata inventata da Paolo Soprani in Italia, è una cosa italiana, tant'è che vendono un casino anche all'estero. Perché... Pigini, eccellenza. 80 anni compie quest'anno la Pigini, è una grande... Ma la tua non c'ha 80 anni, più recente? No, non la mia, nuova assolutamente. E quanto dura una fisarmonica? Ma guarda, queste fisarmoniche sono eterne, ma è una fisarmonica stupenda questa. Cioè, ti sopravviverà questa fisarmonica? Sicuramente. Tu pensa, al tuo funerale sulla barra metteranno la tua fisarmonica e il cilindro, il cappello a cilindro. Che bello! No, così sarà. Magari. Come, immaginati il funerale, come lo vuoi? Guarda, è lontanissimo, però lo vorrei immaginare. A me, guarda, io. La fisarmonica sopra la barra. Suono ai funerali dei miei cari. Sei già vestito da lutto? Da lutto, sempre. Vestito di nero, sempre. E ho suonato ai funerali dei miei cari, purtroppo, e ho suonato ai funerali anche di amici o di altri artisti. Forse la speranza è di che un giorno qualcuno voglia suonare il mio. La speranza sarebbe non morire, diciamo la verità. La cosa migliore sarebbe quella. Più che altro per curiosità, chissà cosa succede dopo di noi. Pensa che non succede niente. Esatto, allora. Meglio suonare adesso. Dimmi, parlami un po' dei tuoi spettacoli, perché da solo ti vedo suonare la fisarmonica da solo, ma cosa c'è intorno? Di chi ti circonda? Ah, guarda, da quando mi sono trasferito a Roma ho trovato delle realtà straordinarie. Noi facciamo un tipo di spettacolo che è il varietà. Noi facciamo il varietà, però non è il varietà come uno si immagina la televisione, Pippo Baudo, la grande produzione a casa, milioni di persone che seguono, ma sono delle varietà che noi conduciamo nei locali, nei clubettini, nei... Anche posti un po' ambigui. anche i posti ambiti, ovunque mi è capitato di suonare anche in situazioni di sesso esplicito. E tu stai lì a suonare la fisarmonica e quelli... E crei l'atmosfera. E quelli suonano altri strumenti a fianco. E crei l'atmosfera. Poi ho lavorato anche però molto... Però tu resti impassibile, proprio invisibile, impassibile come... È una tua cosa etica, sceglierai tu come lavorare. E poi ho suonato anche in club fetish. Com'era il club fetish? Ah beh, questa è una realtà che mi diverte molto. Club fetish, cioè tutti lì a leccare i piedi e tu suonavi la fisarmonica. Sì, penso ho fatto anche, ma non solo con la fisarmonica, anche come disc jockey. Ho lavorato in una dungeon room, che è la stanza al buio. No, quella è la dark room. La dungeon è dove c'è la croce di Sant'Andrea. Ah, sì, la sala delle torture. La sala dei giochi, no? Dove ci si fa il BDSM, che fra l'altro è una pratica molto piacevole e anche molto performativa. È una cosa di grande intrattenimento anche per un pubblico, anche di soli spettatori. E come musica mettevo musica ipercolta del Novecento. Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Bruno Maderna, Edgar Varese. Quindi tutti dei compositori completamente intellettuali che hanno fatto le loro ricerche trovando sostanzialmente dissonanze e qua e là anche pernacchie e mettendole come sottofondo. Era estremamente suggestivo. Al ritmo delle frustate e dello strizzapalle tu mettevi la musica. Sentirsi Contact di Stockhausen mentre c'è lo strizzapalle e le frustate è il massimo della goduria. Erano contenti alla fine. Erano molto contenti. Quindi diciamo, stai specializzandoti in filoni paralleli rispetto ai generi più conosciuti. Non so come definirlo. Fare musica di sottofondo in sala torture è una cosa nuova. Certo, ma anche il modo nostro di fare varietà, dico nostro perché siamo proprio una famiglia, insomma, considera, c'è una scena di varietà e di vaudeville che è mondiale, in cui più o meno ci conosciamo e siamo in contatto, e qui a Roma la nostra famiglia artistica, diciamo, è il Mica Club. Mica Club è quello del burlesque. Sì, si parte dal burlesque, perché il burlesque è stato, diciamo, l'inizio di una nuova epoca del varietà, cioè la gente attirata dallo spettacolo performativo di burlesque ha trovato poi anche una varietà con il canzonettista, che potevo essere io, il corpo di ballo, eccetera eccetera. Considera che noi quasi tutta la settimana va in scena una varietà con 10-12 persone sul palco e magari un pubblico di 100-200 persone, non è un pubblico di 10 milioni di persone. Vabbè, però è quello abituale, ti riconosce. Sì, ma poi è cosa divertente che tramite il varietà rispetto al teatro noi non siamo degli attori. Non è tutto, mi vedi così adesso, in fondo quando sono sul palcoscenico non sono poi così diverso. Certo, invece che gli stivaletti metto gli stivaloni, invece che mette il gilet nero normale metto un gilet da frac, invece che mettere il mio cappello nero a larghe falde metto una grande tuba. Il mio pallone che vedi oggi lo enfatizzo con la bianca. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va, non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Una volta a Brescia ebbi questa idea: facciamo un bel giro dei bar, come noi le chiamavamo le santelle, cioè come da andare dalle varie madonnine, no? Sai, il giro delle santelle, e giriamo questi bar, ognuno ci paga un tot, pochino, e noi suoniamo per i suoi clienti per 5 minuti. Guarda, non avevamo uno sguardo e non avevamo un applauso in nessun bar finché non mi è venuto di dire: buonasera signore e signori, noi siamo pagati da questo bar, voi non ci dovete dare nulla. A questo punto erano tutti contenti. Hanno paura di tirare fuori. Hanno paura di tirare fuori. La gente ormai non accetterebbe un vero spettacolo. Hanno molta diffidenza. Magari chi ha un background di un certo tipo può pensare alla Francia, ma chi non ha quel background può pensare al mendicante, e magari uno che ha un background può pensare a un mendicante come qualcosa di poetico, di astratto, e l'altro invece può pensarlo solo come un fastidio. Non so se l'hai visto, c'è un video su YouTube, cito Braccio, non posso citare la fonte perché l'ho visto qualche giorno fa, e nella metropolitana di Milano improvvisamente comincia a cantare un tenore, poi un soprano, poi un contralto. Erano dei ragazzi di una scuola di musica lirica, bravissimi, che sono sparpagliati nei vagoni della metropolitana e ha cominciato a cantare un'opera cantando da varie parti. Quello è stato veramente sorprendente. Beh, stupendo. Sorprendente. Se lo vedi, È una cosa sorprendente, non si capisce. La gente è elettrizzata perché sono tutti mascherati. Vedi una signora, che ne so, con la borsetta seduta, con la spesa, si alza e canta un soprano meraviglioso. Vedi un signor ragazzo appoggiato con una borsa distrattata. E si davano il passaggio, cantavano tutta un'area, non mi ricordo se era la Tosca, non mi ricordo bene esattamente. Era fantastico. Beh, ma credo che infatti la qualità sia anche una grande discriminante, perché nel momento in cui chiaramente dovessi fare uno spettacolo da treno, porterei con me certamente dei virtuosi o della voce o strumentali che mi accompagnano, o delle donne particolarmente piacevoli anche all'aspetto, o tutti talmente curati nei costumi che si possa capire che non sembrano mendicanti. E certo che in quel momento c'è un palcoscenico, anche solamente il trucco certe volte e il costume diventa un palcoscenico, anche se siamo sullo stesso livello. Non hai detto che non lo organizzi una volta un grande spettacolo da treno? Beh, sarebbe bello. Ma bellissimo. Nel caso verrai. Vabbè, la grande. Vabbè, io scendo, la mia stazione è vicina. Okay. Ciao Mirko. A presto. Buona ciao, bevuta. Ciao. Grazie, ciao. Gianluca, aspetta che ti do. Ecco, niente andato. Volevo regalare il mio CD. I tempi belli non tornano più. Gianluca, cercalo. I tempi belli non tornano più. Ciao. Ormai il treno è andato. Ogni tanto mi perdo nei miei pensieri, mi perdo nella mia vita vissuta e mi perdo nella mia vita raccontata. Ho scritto non so quante migliaia di pezzi, ho parlato non so per quante ore alla radio, ho discusso, sono intervenuto, mi sono contrapposto non so in quante migliaia di incontri pubblici, privati, di talk, di tavole rotonde, di conferenze. E quindi se tutto questo volessi raccogliere in un libro, sarebbe un libro lunghissimo, infinito, sarebbe una storia senza inizio, senza fine. Ogni tanto però, quando mi soffermo, soprattutto in treno, guardo fuori del finestrino, mi sento raccontare, come se emergessero da una palude cadaveri che sono stati lì affogati, dei pezzi di vita, ma non riesco a capire se vita vissuta, vita raccontata o vita immaginata. Il racconto mensile. Mi chiamo Giacomo e voglio raccontare la mia storia. Ho speso tutte le mie energie e i miei denari per togliere dalla strada una prostituta albanese. Dopo qualche mese che ci frequentavamo, mi sono accorto che l'amavo. Non riuscivo più a staccarmi da lei. Mi sa che quella se n'era accorta subito che mi piaceva, perché quando la pagavo, non un 100.000, invece di darmi il resto di un 20.000, mi diceva: «Questo è l'anticipo per la prossima volta». E lo metteva in una busta. Poi un giorno andai io a casa sua e la vidi seduta in un angolo della stanza. Teneva in mano una bottiglia semivuota e guardava nello specchio il suo volto disfatto. Si aprì improvvisamente la porta ed entrò il lattaio. L'uomo, piuttosto greve nell'aspetto, chiese con un tono assai sbrigativo: «Signora, dove glielo metto?» Lei rispose a mezza voce: «Dove ti pare, bello, basta che paghi». Era distratta e l'aveva detto senza pensare, ma io egualmente, non ci ho più visto dalla rabbia, decisi che qualcosa per lei sarebbe cambiato da quel momento in poi. Ritirai tutto quello che avevo in banca e lo spesi per farmi operare. Ora batto io al posto suo e lei è salva, e ci vogliamo bene, ci consideriamo una famiglia. E spesso le chiedo se vorrebbe essere mamma, ma lei mi risponde che è ancora troppo giovane per sacrificarsi. Il treno va. Ecco un'audiolettera di ritorno. La settimana passata feci un commento che non è stato a tutti gradito alla lettera di una mia ascoltatrice di Viaggi in Treno, che raccontava una triste vicenda di amore da scrivania, amore per modo di dire, un suo collega paterno, più anziano, molto protettivo, per circa 2 o 3 anni, adesso non ricordo bene, gli fece l'amico, si confidava, lei diceva a lui tutte le cose, lui faceva il bravo ragazzo, la consigliava, l'accompagnava, insomma lei si fidava, finché un giorno, schifosamente, dopo averla accompagnata a casa, gli infilò 4 palmi di lingua in bocca. per lui questo è un approccio amoroso. Lei rimase malissimo e ne fece una tragedia. Io dissi che non c'era nessuna tragedia, era una sorta di figlio di sacrestano, presmente e perennemente allupato e arrapato, incapace di gestire le sue pulsioni, soprattutto gestire una relazione che, preso dalla rottura dell'embolo della passione, le saltò addosso. Ma questo provocò la reazione risentita di un collega maschio che difende quell'uomo. Caro Nicoletti, ho 40 anni e domenica ho sentito l'audiolettera dell'ascoltatrice 28enne che lamentava di essere stata circuita dopo 2 anni da un collega più anziano che poi una sera cercò di baciarla dopo averla riaccompagnata a casa. La ragazza ha detto di aver pianto disperata per via dell'amicizia tradita da parte del collega. Non mi stupisco più di tanto. Mi stupisco invece delle sue parole, Nicoletti. Un uomo avvezzo al ragionamento e all'onestà intellettuale non dovrebbe, secondo me, dire ciò che lei ha detto in esergo all'audiolettera. Ma forse sono io che non capisco. Mi sono sentito tirato in causa perché per qualche anno ho nutrito un'amicizia platonica verso una mia collega più giovane di 10 anni. Io single, lei sposata. Mi innamorai di questa collega e voglio credere che quell'uomo di cui lei ha parlato la volta scorsa, il figlio del sagrestano, come l'ha chiamato lei, si innamorò della collega più giovane, come ho fatto io. Se fosse stato un marpione, non avrebbe aspettato 2 anni. Aspettare 2 anni e prendere picche non è da marpioni, è da sfigati. Beh, è una storia lievemente diversa. Esiste una vocazione maschile del cavalier servente. Io ho tante amiche, anzi ho molto più amiche che amici, anzi ho quasi esclusivamente amiche. Alcune amiche le ho desiderate, alcune amiche probabilmente in passati lontanissimi saranno stati anche l'oggetto carnale delle mie attenzioni, ma si parla proprio di almeno 50 anni fa, o forse anche più. Molte altre amiche, le accompagno, sto insieme, mi fa piacere perché almeno non puzzano rispetto agli uomini, non hanno il fiato pesante, quel col fiato pesante le tengo lontane, a me dà molto fastidio. Mi piace circondarmi di donne, è molto interessante, è curioso ascoltare il punto di vista di una donna, e quando proprio uno ha qualcosa da dover raccontare di sé, lo racconto più volentieri a una donna, sapendo che le donne sono ciarliere, che lo racconterà subito alla sua migliore amica, perlomeno ne faranno un uso diverso di quello che ne faranno gli uomini. Un segreto di un uomo abbandonato all'androceo è terribile, è una mannaia, una ghigliottina. Le donne sono più misericordiose, le donne in fondo sanno usare i tuoi segreti. Detto questo, la storia del mio amico è completamente diversa, l'amico che mi scrive. Sì, lui coltiva un amore che naturalmente non si può gestire, che cresce nel tempo. Lui è stato rispettoso e mi dice, ma fa parte del gioco naturalmente, è normale che questo accada. Se uno frequenta tanto una donna potrebbe nascere qualcosa che assomiglia all'amore. E allora dov'è il male di quest'uomo? I marpioni ci provano subito, o quasi. La ragazza ha detto che l'uomo ha cercato di baciarla con la forza, ma lei l'ha respinto. Io non ho mai sfiorato nemmeno con un dito la mia collega e probabilmente ho sbagliato. Dove lei vede finzione e inganno, io vedo timidezza romantica. Non che io preferisca l'una all'altra, ma credo siano cose profondamente diverse. Non sappiamo se costui abbia mai detto alla collega cose del tipo «Stai tranquilla, potrei essere tuo padre, ti vedo come una figlia, una sorella, sono sposato». Per me sei un essere assessuato, non ci proverò mai con te, mi cascasse la testa, siamo solo amici. Io ti giuro eterna e casta amicizia, ora e sempre nei secoli. Ma se anche fosse così, le cose possono cambiare. Magari l'interesse per la collega più giovane è arrivato nel tempo. Non possiamo saperlo né io, né lei, né la ragazza. Io so solo che il mio sentimento è nato piano piano, senza doppiezza o scopi segreti. È nato e basta. Per questo credo, senza averne la certezza ovviamente, che lo stesso sia stato per il nostro anziano Casanova. Che male c'è se il maschio chiede alla femmina di fare la femmina? Proprio così, maschio e femmina. Perché è bene chiamare le cose col loro nome. Che male c'è a innamorarsi? Credete che quell'uomo abbia covato per anni un fine bieco e riprovevole? Vi chiedo a tutti e due, inquisitori dei processi alle supposizioni, vi chiedo cosa c'è di strano in un uomo che si innamora di una donna. Fa parte del gioco. Io mi innamoro e prima o poi giungo al momento in cui ci provo. O la va o la spacca, come si dice da noi. Ma è normale, è la vita. Funziona così fra uomini e donne. Ovviamente senza violenza, senza morti né feriti. Magari solo con qualche imbarazzo e niente di più. Oppure taccio per sempre e mi porto nella tomba la mia segreta passione. Non so onestamente cosa sia meglio. Non lo so più. Ci ripensi, Nicoletti, e prenda in considerazione l'ipotesi che il mondo dei maschi non sia fatto solo da talebani lapidatori, da marpioni o da bamboccioni. È anche un mondo fatto di maldestri tentativi d'approccio al genere femminile, a prescindere dalle relazioni sociali, lavorative e d'età. Magari ha ragione lei, Nicoletti. Magari l'uomo della sua trasmissione è un vecchio marpione laido e infingardo. O magari né lei né la ragazza dell'audiolettera avete mai provato quello che io e un'altra manciata di uomini nella storia del mondo abbiamo provato per le nostre giovani amiche. Noi che le abbiamo sempre aiutate, rispettate e amate, anche se in un impeto di passione abbiamo provato a baciarle sulle labbra. Cordialmente, Nicola. No, sono sicuro, ho proprio ragione. L'uomo di cui parlavamo nella precedente trasmissione è un vecchio marpione laido e infingardo. Vecchio non so, magari ha soltanto 30 anni, ma è molto vecchio dentro. Ammetto ci si possa innamorare senza riuscire a gestire il proprio innamoramento di una donna con la quale si inizia un rapporto amichevole, professionale, di sola frequentazione. Ammetto che possa succedere. Lo trovo difficile perché la passione scatta subito. Se una persona ti piace la senti subito a pelle. E se allora vuoi mantenerti un bravo ragazzo, ne stai a distanza. Non cesci, non approfondisci, non la frequenti. Se una persona ti piace e il suo profumo ti fa andare via di testa, devi passare al massimo una o due volte che la vedi e poi devi dichiararti. Non si infila la lingua in bocca a una donna. Se lei non ti dà modo di farti capire in maniera inequivocabile che è esattamente quello che vuole, ma questo lo capisci soltanto quando la sua bocca è un millimetro dalla tua e lei l'avvicina. Se l'avvicini te, fai una mossa sbagliata. Detto questo, puoi coltivare l'amore, puoi accorgerti il ritardo che l'ami e devi dirlo. Lo dichiari normalmente, senza problemi, senza metterla in imbarazzo. Lo dichiari in una situazione in cui lei non si senta con le spalle al muro e lo dici. Probabilmente si fa una grande risata, perché se la donna minimamente fosse stata decisa in qualcosa che possa andare in un arco esteso fra la grande storia d'amore e una semplice intima d'azione per sola lussura, sarebbe già accaduto e l'avrebbe già deciso. Se non l'ha deciso, può dire ciò che vuoi, sbatterei sempre contro un muro di indifferenza.